Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto Mondo. Beginning of this coming 2021, we will have one and maybe more, I hope more than one vaccine that would be available. E buongiorno a Giulia Crivelli. La diciamo la novità. Che è qui in studio, tornata dopo quanto tempo? Sono passati dei mesi, naturalmente, come per tutti i luoghi di lavoro abbiamo seguito anche noi le regole, adesso però ci è consentito a distanza, però insomma condividere sì, molto anglosassone la nostra distanza, sono sicuramente 2 metri, 6 feet. Se 2 metri, siamo tra i pochi credo a rispettarlo ormai in Italia, battute a parte, rispettiamo le distanze, soprattutto sempre quelle, perché quelle non danno fastidio. Non magari solo, io ho il mio copri microfono perché è soltanto mio, sono entrata con la mascherina, insomma cerchiamo di dare il nostro piccolissimo buon esempio. Abbiamo ascoltato le parole di Anthony Fauci, ancora una volta, cosa diceva Giulia? Guarda, ogni giorno che passa mi è più simpatico, perché è come se, non so, io vorrei essere sempre una piccola mosca nella stanza dove si incontrano queste persone. Io credo che lui sia oggettivamente combattuto nel sbattere la porta e andarsene, perché è sotto tiro in tutti i modi dall'amministrazione Trump. Nel weekend ha fatto molto scalpore negli Stati Uniti questi dossier che hanno ricevuto molti giornali, tra i quali il Washington Post, con ricerche che contraddicevano quello che Fauci ha detto nei mesi scorsi, sono state estrapolate sue brevi frasi, togliendo quello che aveva detto prima e quello che aveva detto dopo per farlo sembrare inappropriato. Però lui, forse perché ha 79 anni, una carriera lunghissima, questo è il 6° presidente con il quale lavora, è uno con degli... questo ci ha lavorato parecchio, perché non era, cioè, in passato aveva avuto un po' meno a che fare, però... ormai non lo fanno più parlare negli appuntamenti ufficiali. Questa era un'intervista a una televisione, settimana scorsa ha parlato alla BBC e qui in particolare diceva: entro il 2021, cioè il 2021, avremo forse uno o più vaccini, e questa sarà veramente la chiave di volta. Ormai tutti gli appelli, il tempo che gli Stati Uniti avevano, quella famosa finestra che avevano per veramente fare dei lockdown mirati o no, è andato, è perduto, e ora, come sappiamo, la California, il governatore Newsom ha richiesto di nuovo di chiudere moltissime attività commerciali, moltissimi ristoranti che potranno fare di nuovo soltanto il take out e il take away, quindi la situazione è gravissima. Il sindaco di Miami, ne danno conto oggi molti giornali, che è un repubblicano, in aperto scontro con il governatore della Florida, che è un repubblicano, e quindi anche con il presidente Trump, a sua volta ha di nuovo chiesto molti sacrifici in termini di chiusure, lockdown e stay at home orders a tutti i cittadini della città. Quindi gli Stati Uniti, purtroppo presi in tutto questo, hanno anche questo inevitabile, ormai sotto gli occhi di tutti, conflitto tra la posizione di Fauci, che il Chicago Tribune titola tutta pagina "Fauci on the sidelines", cioè messo da parte, e il tema che del CDC, il Center for Disease Control and Prevention, che adesso è sotto il fuoco incrociato anche di Trump, che ieri, ne dà conto il Washington Post e il New York Times, ha ritwittato un tweet di un famoso presentatore americano che è tra i complottisti. Quindi il CDC dice bugie, l'NIH, cioè il National Health Institute, al capo del quale c'è Fauci, anche questi raccontano bugie. Insomma, la posizione del presidente Trump è quasi incomprensibile, perché continua un po' a rifiutare la realtà. Ha messo la mascherina, sono stata via un giorno ed è successo questo grande cambiamento, che ha messo la mascherina, però insomma non basta per... c'è il grande tema della scuola, della riapertura delle scuole. Oggi il Wall Street Journal parla di questo budget, di questo deficit record, è la cifra più alta da dopo la Seconda Guerra Mondiale, che sarà per il 2020, naturalmente per la spesa extra stanziata per far ripartire l'economia. Si potrebbero aggiungere i fondi per far riaprire le scuole in sicurezza, e questo è un tema che sicuramente sarà quello più discusso da qui alla fine di agosto, quando molte scuole americane dovrebbero riaprire. Giulia, abbiamo anche una voce di Trump che vogliamo sentire. Ci colleghiamo a quello che stavi dicendo. Assolutamente, sentiamo il nostro Trump. I have a very good relationship with Dr. Fauci. I've had for a long time, right from the beginning. I find him to be a very nice person. I don't always agree with him. I get along with him very well. I like him. È quasi una risposta a Fauci. Oh, no, mamma mia. No, scusatemi, ma perché veramente sembra quasi una, non so, una presa in giro, nel senso che due giorni prima aveva detto che Dr. Fauci aveva sbagliato perché aveva chiesto di mettere le mascherine quando non era necessario, aveva detto che non erano necessarie quando invece sarebbe stato necessario. E qui dice he's not a very nice person, che è come mi ricorda quelli che dicono: no, ma io non sono omofobo, ho tanti amici omosessuali. Ma cosa vuol dire? Cioè, gli hai sparato addosso per settimane e settimane, però è una nice person, una persona per bene. Cosa c'entra? È uno scienziato che ti sta dando delle indicazioni che tu non vuoi ascoltare, è molto più semplice. Senti Giulia, invece sempre sulla stampa americana ci segnali l'apertura del New Yorker dedicata al tema dello smart working. Noi ieri abbiamo raccontato una piccola storia, insomma le aziende stanno molto valutando, discutendo, cercando di capire cosa fare a settembre, se tenere o non tenere questa che è anche un'opportunità, però... È molto interessante quello che appunto ieri giustamente avete detto, cercheremo di tenere il tema alto, perché si tratta di lavorare da casa oppure lavorare per chi può fare, per chi può usare la tecnologia in luoghi bellissimi, come avete raccontato ieri. Montagna, le Dolomiti. Quello è proprio un estremo. E quindi il New Yorker che ha affidato l'immagine di copertina a questo grande illustratore Maguire, ed è una ragazza seduta al suo computer, guarda fuori dalla sua finestra, che però è chiaramente la finestra di una città, e però si immagina di vedere uno scenario verde, perché forse l'ideale sarebbe poter lavorare con il computer in un posto stupendo. Ma la realtà è un'altra. La realtà è un'altra, che a volte si è in casa. Sì. Tra l'altro i giornali americani stanno anche analizzando l'impatto che tutto questo avrà sul mercato immobiliare, perché molti... Certo, cambierà il valore di riferimento, esatto. Criteri, parametri sicuramente. È comunque una vicenda da seguire. Abbandoniamo l'America o abbiamo ancora qualche notizia? No, se vuoi andiamo, di Polonia avete parlato tanto, ho stampato la prima pagina della Gazzetta Wyborska, che è un quotidiano bellissimo, molto liberal, cioè che cerca di non essere, c'è un titolo che è Polska Trzaskowskiego, che ho chiesto a un mio amico che sa il polacco, vuol dire una Polonia trascovizzata. Sappiamo che ha perso l'avversario di Duda, però ha perso con un margine molto piccolo, c'è stata un'affluenza enorme ed è molto interessante. Tanto che addirittura loro dicono che insomma c'è un effetto sulla Polonia legato a questo sindaco di Varsavia. Assolutamente, cioè c'è proprio l'emergere di tutti quelli che tutto sommato, nonostante i buoni risultati economici raggiunti da Duda, percepiscono che c'è qualcosa di forzato, che c'è qualcosa che sta erodendo le loro libertà, e naturalmente ci sono i temi della famiglia. La Polonia è un paese estremamente cattolico, lo sappiamo tutti, ricordiamo Lech Walesa, il suo sindacato Solidarność, quindi sono tanti temi che si intrecciano, temi sociali. È interessante l'analisi dei giornali tedeschi, purtroppo l'articolo intero non ho avuto il coraggio di chiedere al mio amico di tradurlo, quindi ho guardato quelli in tedesco, e si parla di come è stata condotta la seconda fase, cioè tra il primo e il secondo turno, da parte del presidente Duda, che ha il controllo totale della principale TV di Stato, ha una presenza sul territorio fortissima, e quindi per esempio ha offerto a tutti gli over 65, ha promesso e poi ha garantito ed effettivamente è stato così, andate a votare assolutamente, il suo elettorato il suo consenso è molto forte tra gli over 65, andate a votare perché salterete la coda, non importa, non abbiate paura delle code che ci saranno perché era prevista grande affluenza, voi la salterete, e così è stato. E quando vedremo, se li vedremo, i risultati più dettagliati del voto e delle differenze di chi ha votato chi, quali sono stati gli spostamenti, probabilmente questa campagna elettorale molto capillare, molto mirata, verrà confermata, insomma i risultati si vedono. Ha vinto di misura, però ha vinto pur sempre di quasi 2 punti, quindi. E invece Giulia, in Gran Bretagna, paese in genere poco amico di regolamenti troppo stretti, di sanzioni e cose di questo genere, lo sappiamo, durante il lockdown c'erano delle indicazioni ma non c'erano prescrizioni rigide come da noi, adesso però siamo arrivati quasi a una capovolta. Sì, che forse neanche qui da noi, insomma dal 24 luglio chi non non avrà la maschera in qualsiasi luogo al chiuso e soprattutto nei negozi, 100 sterline di multa, che sono quasi 120 euro. E Metro fa un gioco di parole e dice face it, che è un modo di dire per dire, insomma, affronta il problema, ma face naturalmente come face mask, you have to put on a mask, accettatelo, dovete mettervi la maschera. E un altro gioco di parole invece, sì, di un altro paese che ha sicuramente ancora un'emergenza è l'Australian, che titola It's the economy, Covid. Quindi una volta era è la stampa bellezza e qui è l'economia, caro Covid. Il tema è quello anche lì delle riaperture. L'Australia è riuscita a mantenere il numero di decessi basso, però dover introdurre altri lockdown se i focolai continueranno a esplodere anche lì vuol dire di nuovo fare un sacrificio economico, e quindi come sempre questo trade-off, come si dice in inglese, tra il prezzo economico e il rischio sanitario. Allora abbiamo un minutino, non tanto, ci sono ancora due o tre argomenti, però scegli tu quello che può essere sintetizzabile in un minuto. Ma Giulia, se vuoi dalla Francia, visto che oggi è il 14 luglio, grande festa per loro, Le Monde ieri è uscito con una edizione doppia, invece Le Figaro oggi apre con la figura di un soldato, di un militare francese con la sua mascherina, 14 luglio l'omaggio della nazione a tutti i soldati, e non ci sarà la tradizionalissima super parata super spettacolare sugli Champs-Élysées, ci sarà invece ci saranno molti soldati tutti distanziati e tutti con la mascherina a Place de la Concorde, che comunque insomma è la presa della Bastiglia, il giorno è la festa forse più importante per la Francia, quindi è giusto che in qualche modo si celebri cercando, come facciamo noi nel nostro piccolo, loro nel loro grande, a rispettare tutte le indicazioni. Va bene, fermiamoci qua allora, è tutto per la puntata di oggi. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo nei prossimi giorni, naturalmente sempre in studio, possibilmente, vediamo di non essere smentiti dai fatti, dalla cronaca, con Filippo Reggi in regia, Jacopo De Franchi in assistenza e in redazione, da Alessio Maurizio. Ciao, buona giornata, a domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.